Benvenuti a un nuovo episodio di She Summary Podcast. Oggi ci immergeremo in un documento di ricerca molto interessante intitolato L'acrobazia della lavagna, analisi critica delle strategie per promuovere la Lean come strumento di apprendimento attivo. Cosa ci dice questo documento sulla diffusione della lavagna interattiva multimediale nelle scuole italiane? Grazie. Questo documento inizia rivelando che la diffusione della LIM non è stata un'evoluzione naturale, ma il frutto di strategie politico-commerciali ben orchestrate. Gli attori pubblici e privati hanno collaborato per presentare la LIM non solo come un dispositivo, ma come un'opportunità irrinunciabile per un nuovo modo di apprendere. È interessante notare come sia stata costruita una narrativa intorno alla LIM. Puoi parlarci di come questa narrativa ha incoraggiato un uso conservativo della tecnologia? Certo, sebbene la LIM sia stata presentata come un modo per rivoluzionare l'apprendimento, in realtà ha portato a un potenziamento delle pratiche esistenti piuttosto che a una vera innovazione. La LIM è stata vista come un aggiornamento, ma non ha stimolato un cambiamento concettuale sostanziale, punto. E così, l'ente INDIRE ha avuto un ruolo cruciale in questo processo, giusto? In che modo ha legittimato l'uso della LIM nella pedagogia? Assolutamente. INDIRE ha creato un'impalcatura teorica intorno alla LIM, associandola a concetti come apprendimento attivo e costruzione condivisa di significati. Ma questo ha anche fornito una legittimazione scientifica a una tecnologia che, in ultima analisi, potrebbe non aver realmente cambiato le pratiche didattiche. E non dimentichiamo l'aspetto commerciale. Come hanno reagito i produttori e i rivenditori alla retorica istituzionale? Esatto. Le aziende come Promethean e Smart Technologies hanno amplificato questa narrativa, vendendo non solo hardware, ma anche una visione pedagogica. Hanno promesso spazi coinvolgenti e interattivi, creando pacchetti chiavi in mano per le scuole. Ma come molte volte accade, questo ha portato a un'amplificazione del messaggio senza una reale verifica dei risultati. Infatti, ma come ha influito tutto questo sul modello di formazione degli insegnanti? La formazione si è trasformata in una corsa per ottenere certificazioni più che per sviluppare competenze pedagogiche. Il punteggio per le graduatorie ha guidato l'interesse e questo di fatto ha svuotato il concetto di formazione professionale. Questo è davvero preoccupante. La ricerca quale evidenza ha fornito sull'efficacia della LIM? Le meta-analisi mostrano un'efficacia modesta. L'istruzione assistita dalla LIM ha un effect size che è appena sotto la soglia significativa. Ciò implica che l'efficacia della LIM dipende molto da come viene utilizzata nella pratica, anziché dal semplice possesso dello strumento. Quindi, torniamo al tema dell'uso reale in classe. Qual è la situazione attuale? Sebbene la LIM possa offrire potenzialità collaborative, molti insegnanti usano ancora lo strumento in modo tradizionale. Gli studenti rimangono spesso passivi e l'interazione è limitata e guidata. Sembra che ci siano delle barre strutturali che limitano l'uso della LIM. Ci sono voci critiche su questo argomento? Sì, critici come Bill Ferriter sostengono che invece di rivoluzionare l'apprendimento, la LIM tende a potenziare il modello tradizionale, mantenendo il controllo nelle mani degli insegnanti. Alcuni vedono questo investimento massiccio in hardware come un spreco di denaro pubblico. E oltre alle critiche economiche, ci sono anche questioni ecologiche e cognitive. Sì, ci sono preoccupazioni sui rischi degli schermi e sulla possibilità che strumenti analogici possano essere più efficaci per alcune attività. La sfida più grande è quella di non confondere il mezzo con il fine. Cosa si può fare per migliorare questa situazione? Il documento suggerisce un cambiamento strategico verso investimenti più mirati nella formazione e nello sviluppo professionale, piuttosto che nell'acquisto di hardware. È essenziale sviluppare un'alfabetizzazione critica alla tecnologia da parte di docenti e formatori. Assolutamente. In conclusione, come ci si può muovere verso un'innovazione pedagogica matura? Dobbiamo superare il determinismo tecnologico e riconoscere che l'innovazione educativa è un processo culturale e pedagogico. Solo così potremo veramente integrare la tecnologia nella didattica in modo naturale. Ottimo, grazie per questa interessante discussione. Speriamo che i nostri ascoltatori abbiano trovato utile questa analisi sulla LIM e sul suo impatto nell'educazione. Ci vediamo nel prossimo episodio di Shy Summary Podcast.